America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Cannes, Mario Platero. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Sono a Cannes al seguito della Casa Bianca, al seguito del presidente americano Barack Obama per partecipare al G20, un G20 difficile perché non sembra presentare alla vigilia delle possibilità di soluzioni. Se saremo fortunati avremo dei progressi. Il problema qual è? Beh, il problema è l'Europa, un'Europa che arriva in ordine sparso, un'Europa che non è riuscita, nonostante le varie opportunità che ha avuto, di mettere insieme un programma credibile, una Germania che continua a isolarsi, una Grecia che ha sorpreso il resto del mondo con questa sua improvvisa innovazione di un referendum che potrebbe staccarla del tutto e definitivamente dall'euro, un'Italia che arriva con un governo debolissimo. Le premesse dunque sono tutte poco incoraggianti, anche perché è l'Europa ad essere al centro di questo ciclone di crisi. Lo abbiamo sentito ieri dal governatore della Banca Centrale Americana Ben Bernanke quando ha parlato in conferenza stampa. Bernanke, che alla riunione del Comitato Monetario della Fed ha lasciato tutto invariato, perché poi tutto sommato le cose in America non stanno andando malissimo, il tasso di crescita è stato del 2,5% per il terzo trimestre. Bernanke, vi dicevo, alla fine ha detto che il vero problema per tutti resta quello dell'Europa. Abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Carlo Bastasin, nostro editorialista, con cui cercheremo di capire che cosa si può fare a questo G20 di Cannes. Buongiorno Carlo. Buongiorno Mario. L'Europa arriva come l'anello debole della catena a questo incontro del G20. Non è un'Europa che può pontificare, non è un'Europa che può mediare, non è un'Europa che può imporre dei punti di vista, né come continente, né devo dire come singoli leader. Ecco, secondo te cosa potrebbe essere il minimo che l'Europa può presentare a questo G20 di Cannes per poter recuperare un po' di credibilità? Beh, bisognerebbe volere tutto per volere poco, perché effettivamente dal G20 bisognava aspettarsi il famoso riequilibrio, non solo che l'Europa rimettesse in ordine la propria attuale instabilità finanziaria, ma che gli equilibri, gli squilibri finanziari tra Stati Uniti e Cina in qualche modo fossero messi, diciamo, in una prospettiva di rientro. Avrebbe aiutato anche l'Europa questo, quindi era necessario il grande accordo, il grand bargain, come si dice qua, per avere diciamo investimenti stabili, rassicuranti da parte dei paesi che hanno dei surplus di partita corrente molto consistenti, come naturalmente la Cina, anche alcuni paesi europei. Ora questo quadro di stabilità invece non c'è da nessuna parte. Invece che cosa potrebbe andare storto? Per esempio, si era detto che l'Europa doveva presentarsi con un pacchetto credibile di sostegno ai paesi in difficoltà dal punto di vista del debito, per arginare il contagio, per fare un cordone sanitario con la Grecia, e dunque dare delle rassicurazioni che davvero si stava facendo qualcosa. A quel punto si poteva immaginare la costituzione di un fondo separato al quale gli altri degli emergenti, quelli che stanno meglio nel G20 fra gli emergenti, dico Cina, Brasile, India, avrebbero potuto contribuire a loro volta con un fondo. A quel punto si poteva avere un doppio fondo, il fondo rafforzato a leva dell'FSF o nella forma che sarà, diciamo di 1.400, 1.600, 1.800 miliardi di euro, e poi magari un fondo parallelo rinforzato a supporto esterno magari di 500, 700 miliardi al quale avrebbero contribuito gli altri paesi. Secondo te questa è un'ipotesi ancora possibile o l'Europa arriverà di nuovo a mani vuote? No, mi sembra che purtroppo abbia perso credibilità la soluzione che è stata trovata al summit europeo domenica scorsa, prima di tutto perché c'è stato questo grave incidente greco di mettere in questione l'accordo da partire, diciamo, dalla mattonella più debole della costruzione, proprio la Grecia. E l'altro è che in queste condizioni di instabilità diventa ancora più evidente che l'accordo europeo, il primo pilastro, in realtà non comporta il conferimento di denari nuovi da parte di chi potrebbe metterli. Questo è un noto limite di quell'accordo, è un limite che risale a intese tedesche interne. La Merkel col Bundestag ha chiaramente riconfermato che la Germania non metterà mai, non potrà mai perdere più di 221 miliardi di euro. E quindi si può far leva quanto si vuole, ma se c'è un limite alle perdite che si è pronti a sopportare, la leva non è credibile, perché tutto il potere delle risorse che si mettono è parametrato appunto sul limite di perdite tollerabili, non su un'ipotetica leva. Mancando questa credibilità da parte del fondo, diciamo, intraeuropeo, sarà più difficile convincere gli altri che se noi non vogliamo mettere risorse devono mettercele gli asiatici o l'India, appunto, il Brasile. Ecco, secondo te il G20 è attrezzato per rispondere a sfide titaniche tipo quella che si manifesta in queste settimane? Beh, diciamo che non c'è alternativa, perché è il formato giusto per mettere attorno al tavolo i responsabili. Se poi non si riesce a elaborare la soluzione a quel tavolo, purtroppo non abbiamo un'alternativa. D'altronde è molto chiaro che al G20 si possono esercitare delle pressioni, ma le pressioni si fermano dove, diciamo, le competenze sono interamente nazionali. Al di là di fare gli esempi che tutti conosciamo sull'Europa, se pensiamo alla necessità di un compromesso di politica fiscale all'interno della politica americana, qui a Washington, come tu segui molto bene, molto da vicino, sai che per ragioni tutte interne di politica domestica, che non vengono nemmeno sfiorate dalle pressioni della Cina o dell'Europa, democratici e repubblicani non riescono e non riusciranno a breve a mettersi d'accordo affatto su una politica fiscale credibile. Quindi purtroppo ci sono dei limiti in questo, e quasi sempre sono le crisi che rompono i limiti e costringono a recuperare, diciamo, buon senso e senso dell'interdipendenza. È triste che noi stiamo praticamente uscendo da una grave crisi, come G20, come Europa ci siamo ancora dentro e non abbiamo capito la lezione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 22enne californiano Buzz, con le sue sperimentazioni di musica elettronica, sarà in tour per gli Stati Uniti a partire dal 30 novembre. Sarà anche a New York il 2 dicembre al Bowery Ballroom. E di Buzz dunque vi faccio sentire You Are My Excuse to Travel. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.